La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici all'ascolto, La Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24. Una puntata che ha dovuto selezionare i film, perché ne escono ben 7 di nuovi nelle sale cinematografiche italiane in questo fine settimana. Una puntata però anche con grandi ospiti, su tutti John Turturro. Allora andiamo subito ad anticipare i temi di questa nostra puntata nei titoli di testa. Una volta dissi che la verità è giusta. Ora sembra che sia diventata legale. Parola di Gordon Gekko, al secolo Michael Douglas, ancora protagonista in Wall Street 2, Il denaro non dorme mai. Dietro la macchina da presa c'è sempre Oliver Stone. Davanti, tutto il marcio della finanza americana. Tu vuoi fa un napoletano? John Turturro racconta alla Rosa Purpurea il suo Passione, musical atipico che racconta Napoli attraverso le sue canzoni di ieri e di oggi. Un viaggio nei suoni di una città che sa essere spietata e meravigliosa. Cercano di rapire un ministro, ma portano a casa solo un sottosegretario. È il colpo mancato che sta al centro di Figli delle Stelle, la commedia di Lucio Pellegrini, con un cast d'eccezione, da Pierfrancesco Favino a Beppe Battiston, da Claudia Pandolfi a Fabio Volo. Qualcuno mi ha ricordato che una volta ho detto l'avidità è giusta. Ora è legge. Ed è il mercato a dettare le regole. Ero considerato un uomo piuttosto furbo. E forse sono stato dentro troppo a lungo. Ma la prigione può aiutarti a restare lucido. Guardi oltre le sbarre e dici: ma là fuori sono diventati tutti matti. E questo è il Gekko pensiero, potremmo dire. L'avete sentito, Michael Douglas nei panni di Gordon Gekko, il finanziere d'assalto che in Wall Street nel 1987 ci raccontava, proprio con l'esempio, un esempio sicuramente non particolarmente edificante, come la finanza poteva truccare le carte per avidità. Ebbene, lo ritroviamo in questo secondo capitolo, potremmo dire, di Wall Street, che non è assolutamente una saga, ma anzi, il film non si chiama neanche Wall Street 2, si chiama Wall Street, il denaro non dorme mai, che è una bellissima definizione. Lo firma ancora un Oliver Stone particolarmente pimpante, perché c'è ancora molto da raccontare su quel mondo della finanza. Chi non lo sa, basta leggere i giornali degli ultimi anni per capire che le cose non sono cambiate molto, e se sono cambiate questo film prova a spiegarci come, avendo proprio come uomo cardine, quasi come Cicerone, per spiegarci i cambiamenti di una finanza un po' sbarazzina, proprio Gordon Gekko. Il film comincia in una maniera davvero bruciante. 2001, Gordon Gekko esce dal carcere, non lo vediamo ancora in faccia, e Oliver Stone ce lo mostra di spalle alla centralino, diciamo così, alla reception, dove gli vengono riconsegnati i suoi effetti personali che gli erano stati sottratti nell'87, fra i quali appunto un telefonino, che è uno di quei cellulari stile mattone che appunto erano i primi che venivano così acquistati da questi signori della finanza negli anni Ottanta. Uno scherzo, un gioco di Oliver Stone con il suo pubblico, quasi come il cappello di Indiana Jones nell'ultimo capitolo della saga, quella sì, una saga con Harrison Ford. Insomma, prendiamo subito familiarità con Gordon Gekko. Lo ritroviamo nel 2008, autore di libri di grande successo, proprio perché come gli hacker che spiegano meglio di tutti come vanno le cose per fregare internet o per craccare i programmi. Ecco, Gordon Gekko spiega come mai si è arrivati a questa nuova crisi della finanza. In un qualche modo un giovane e rampante ragazzo di Wall Street, della Wall Street di oggi, Jake Moore, lo avvicina. Jake Moore ha una relazione con la figlia di Gordon Gekko. La figlia di Gordon Gekko non ne vuole sapere minimamente di vedere suo padre, a cui addebita la morte di suo fratello, morto suicida, anche per la devastazione di questo male esempio del padre. Il giovane Jake vorrebbe investire in energia pulita, in energia rinnovabile, fare finanza alternativa in questo senso. L'incontro con Gekko chiaramente gli cambierà un pochino gli orizzonti. Andiamo a sentire un momento proprio del rapporto che c'è con sua figlia da parte del finanziere Gordon Gekko. Sentiamo. Gordon Gekko era uno dei nomi più importanti di Wall Street prima di finire in carcere per insider trading. Quel nome ormai non significa più niente. Se non ci fossero quelli che rischiano, che fine faremmo? Ti avverto che stai sbavando. Mi chiamo Jacob Moore, sto per sposare sua figlia. Mia figlia non mi parla da anni, e tu lo sai. Mio padre non è mai stato una persona affidabile. Ecco perché ho paura. Tu lo troverai assurdo, ma la gente cambia! Lui non è quello che credi, Jake! Ci farà del male! Insomma, avete sentito proprio la disputa fra i due ragazzi, i due fidanzati con qualche impegno in più di un semplice fidanzamento, appunto Jake e la figlia di Gecko. Insomma, è la figlia a frenare su questa ritrovata passione di questo ragazzo per il padre e lui invece a cercare di spronarlo. Il tema è, l'interrogativo del film è: Gecko è cambiato davvero? E questo è il giallo, questa è la parte gialla del film, un film che però si tiene tutta la sua potenza nel raccontare appunto tutti i retroscena con un pesante jacuzzi di Oliver Stone, tutti i retroscena della crisi finanziaria di oggi. Un film che sicuramente ameranno quelli che avevano visto Wall Street dell'87, ma può tranquillamente amare per il ritmo e per i colpi di scena anche un pubblico neofita in questo senso. Andiamola a sentire allora. Oliver Stone cosa aveva raccontato, come aveva spiegato e introdotto il film alla conferenza stampa del Festival di Cannes quando è stato presentato. Sono confuso, come lo sono altre persone nel mondo in questo periodo, a proposito del capitalismo. Mi chiedo se nella forma attuale può funzionare, e sembra di no, perché è eccessivo e sregolato. Mi piacerebbe vedere riforme serie negli Stati Uniti, ma non solo. Sono necessarie in tutto il mondo. Basta vedere cosa è successo in Grecia, in Inghilterra, in Spagna e Portogallo. Non so, è come se fossimo tutti ubriachi. Nel 1987 ho pensato, bisogna correggere questo sistema, ma non è stato fatto, ed è peggiorato. La rosa purpurea. Quando mamma da fatta, quando mamma da fatta. Vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta. Non basta sti carnevè, non basta sti carnevè. La voce straordinaria di Pietra Montecorvino, una dei talenti più esplosivi della nuova musica, canzone napoletana, e uno dei tanti talenti che John Turturro ha incluso nel suo Passione, questa avventura musicale, come lui stesso l'ha soprannominata, definita, o potremmo chiamarlo musical atipico, se vogliamo, che segna un importante episodio della carriera registica di John Turturro, l'attore preferito di un cinema americano anni 80 un po' tosto, arrabbiato, dai fratelli Coen a Spike Lee. Ebbene, ha già incontrato spesso la musica nella sua opera di regista, pensate a Illuminata, a Romance and Cigarettes, un vero e proprio musical, ma stavolta è partito l'amore per Napoli. Napoli che, come sentiremo fra poco nell'intervista con John Turturro, l'attore italo-americano aveva già incrociato nella sua carriera, soprattutto di attore teatrale, e che gli è rimasta talmente nel cuore da dedicargli un film. Questo film appunto si chiama Passione ed è una sorta di cartolina da Napoli vissuta, rivissuta, reinterpretata proprio attraverso le sue canzoni più famose. Ce ne sono tantissime, sono tutte famosissime, sono tutte interpretate da voci a volte classiche, a volte totalmente moderne e con arrangiamenti veramente rivoluzionari in certi momenti, ed è molto interessante lasciarsi cullare da questo conseguirsi di canzoni che ci muovono emozioni, che sono dentro il nostro cuore, la nostra mente, perché sono brani famosissimi e bellissimi, ma che hanno una loro veste moderna. E vi assicuro, la cosa bella è che Napoli viene fuori davvero. L'operazione più interessante è proprio questa. Ci voleva un americano, un italo-americano, per raccontarci questo aspetto di Napoli, per farci vedere un Napoli praticamente inedita. Ci aveva provato qualche anno fa Tonino De Bernardi, regista indipendente, che aveva fatto un film che si chiamava Passionata, c'era quasi una similitudine, anche lì erano le canzoni napoletane a dettare il ritmo. Ma qui, insomma, arriva un signore che ha lavorato a Hollywood, che è stato nei festival più importanti e che con grande cuore fa emergere questo questo film proprio dalle canzoni, fa raccontare una città dalla sua musica. È un'operazione totalmente riuscita, di grandissima godibilità anche per chi magari non è appassionatissimo di canzoni napoletane o non è napoletano, ma è un film che, come sentiremo sempre nell'intervista, vuole avere un respiro addirittura internazionale. Del resto il crossover, come si usa dire, che c'è nella musica napoletana è straordinario. Ci sono influenze che vanno dall'arabo allo spagnolo, ovviamente alla grande melodia italiana. È davvero un crogiuolo che ha fatto nascere uno stile, un genere addirittura, che è quello della canzone napoletana. Allora, adesso fra poco noi sentiamo John Turturro, perché ci ha rilasciato un'intervista esclusiva con grande simpatia e anche con tante cose interessanti che ci ha detto. Però nel frattempo voglio aprire una finestra sul DVD Game, giusto perché i nostri appassionati ascoltatori sono così pronti e sanno che in questo momento cominciano ad aprirsi le finestre sulle clip del film misterioso della settimana. Ascoltiamo la prima. Prega, por favor, este dos pasos con los señores que están aquí al final. Gracias. Espero que le escuchas a tu vida. Los señores le mandan de beber para brindar a la salud de los esposos. Allora, questo era la prima delle clip misteriose, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta. E più tardi ci saranno altre due possibilità per provare a indovinare e a vincere il film di questa settimana. Diciamo che Napoli c'entra, forse qualcuno di voi l'ha già capito. Ma andiamo avanti con Napoli e con una versione straordinaria targata Peppe Barra di un brano straordinario come quel Don Raffaè firmato Fabrizio De André. Mi chiamo Pasquale Gaffiere, sono brigadiere del carcero in lì. Io mi chiamo Gaffiere Pasquale, so Poggio Reale dal 53, ma al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. E questa è la grande musicalità di Peppe Barra, che canta Don Raffaè e nel film la sceneggia in una maniera straordinaria. La vediamo proprio materializzarsi davanti ai nostri occhi. Allora, John Turturro è passato da Milano, noi lo abbiamo incontrato sul 14° piano della Terrazza Martini con uno splendido panorama davanti. Abbiamo cercato di parlare di Napoli, però da lì Napoli non si vedeva, si poteva solamente intuire. E come è nata l'idea di questo film? Come è arrivato John Turturro alla decisione di girare questo Passione? Ci ha risposto in italiano. Io ho lavorato in Napoli 5 anni fa in teatro Mercadante, teatro Stable, con Di Filippo, Questi Fantasmi. Primo tempo in Napoli, ma è una grande esperienza per me. La gente, la città è very particolare, like the girl says in the movie, unica. Una città particolare e unica, ha ragione assolutamente John Turturro. Quali problemi però si è trovato davanti nella produzione di questo film? La mia più grande esitazione era sul fatto che non conoscevo la musica abbastanza bene per fare il documentario. Noi abbiamo iniziato pensando al documentario, ma poi abbiamo dovuto misurarci con il tempo. Quindi mi chiedevo se riprendere tutte le canzoni o citarne solo 30 secondi. Ci sono state molte discussioni su questo. Poi ho deciso, riprendiamo tutte le canzoni. E abbiamo avuto un buon risultato. Abbiamo lasciato che fossero le canzoni a raccontare la storia, che fossero le canzoni ad aprire la finestra e prendere la strada. E Napoli è stata un'alleata in questo. Ogni canzone è una finestra diversa. E abbiamo pensato, wow, probabilmente è questa la via che dobbiamo prendere. Maybe this is the way we should do it, versus... Così ho ripreso la canzone o un pezzettino di essa e poi l'intervista. Credo che questo elemento renda il film un musical. Un musical che proviene dal basso, dalla faccia delle persone, dalla terra. È da lì che viene il film. E in quanto alle scelte estetiche e musicali, come dicevamo, una Napoli ripresa in maniera molto originale, davvero poco vista in tanti anni di cinema italiano, e canzoni reinterpretate altrettanto in maniera originale. Sentiamo ancora John Turturro. I could have done a movie about the classical tradition. Avrei potuto fare un film sulle tradizioni classiche, ma sarebbe stato un altro film. Girare un film per 4 settimane è limitante, ma quello che noi siamo riusciti a fare è catturare qualcosa di Napoli, della sua diversità, la sua complicazione, la pazzia, la delicatezza e la sua umanità. È un posto che mi ricorda la New York di tanto tempo fa. A Napoli si concentrano tanti elementi dell'Italia e le persone sono tutte delle star. Immagino che sia stato unico anche lavorare con i napoletani, non tanto con gli attori, con i musicisti, quanto con la gente comune. C'è qualche aneddoto che puoi raccontarci di questa relazione con questa gente? Ogni singolo momento, ogni singolo giorno. Tu parli con qualcuno e le persone ti fermano per strada. Un ragazzo mi ha visto e voleva mostrarmi la sua collezione di vinili originali del 1978. Le persone vogliono partecipare. Una volta uno mi ha riconosciuto e allora ha chiesto a un amico se sapeva chi fossi. Quello non lo sapeva. E allora l'altro stupito gli ha detto: «Come, non sai chi è John Turturro? Sei troppo stupido». Napoli è un posto esplosivo e le persone regolari, che lavorano, che devono superare ostacoli, diventano più forti per esprimere se stesse. E io credo che questo si veda e si percepisca. Sono rimasto veramente colpito il primo giorno di lavoro, perché tu capisci che là devi essere più forte a causa di tutte le circostanze che sappiamo. Ma credo che molte di queste lotte sono lotte che avvengono in tutto il mondo, solo che lì, a Napoli, sono più cristallizzate. La voce di Fiorello a reinterpretare, per esempio, la mitica Caravan Petrol di Renato Carosone, del quale scopriamo tanti retroscena. Anche in questo senso ci siamo fatti spiegare da John Turturro come sia arrivato al personaggio di Fiorello, così distante anche come provenienza geografica dalla musica napoletana. Sentiamo. Ho detto a Massimo Ranieri che Fiorello aveva una bellissima versione di Caravan Petrol. E se avessi avuto più soldi avrei girato Caravan Petrol per 2 giorni e avrei voluto far sfidare Massimo e Fiorello sulle note di Caravan Petrol. A Massimo andava bene, anche se era in vantaggio perché Fiorello non è di Napoli, viene dalla Sicilia. Però a me non interessava perché la musica è universale e nel film ci sarebbero state alcune persone napoletane, ma altre avrebbero rappresentato le influenze che sono arrivate lì, americane, spagnole o africane. Per me Napoli è anche quello. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma e terzo film del quale ci occupiamo, fra quelli che abbiamo appunto selezionato fra i tantissimi ben sette che escono in questo fine settimana. Vogliamo comunque segnalarne anche altri che troverete nelle sale, da Fair Game con Naomi Watts e Sean Penn, attori importanti, soprattutto Sean Penn, film non particolarmente riuscito, a Uomini di Dio, candidato francese per gli Oscar di quest'anno, film rigorosissimo che racconta la strage di una serie di una comunità di monaci trappisti in Algeria, francesi, una storia realmente accaduta, molto toccante e girata con grande rigore. E poi ancora Serafine, Paranormal Activity 2 per chi ama l'horror. Insomma, di proposte ce n'è tante. Dicevamo in chiusura di seconda parte che il film che troveremo probabilmente più in alto fra quelli che escono in questo fine settimana è Figli delle Stelle. La classifica al momento vede Benvenuti al Sud, che è il successo dell'anno, almeno per questo, fino a questo momento, quasi 17 milioni di euro incassati aggiornati allo scorso weekend. Pensate un po', il primo posto in classifica, poi Cattivissimo Me, che è partito fortissimo anche in Italia, poi Step Up 3D, Inception, che regge, si avvicina ai 10 milioni. Insomma, questi i vertici della classifica degli incassi. Ma il Figli delle Stelle, con il suo super cast di Lucio Pellegrini, potrebbe fare bene. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Chi non accenna a ballare sentendo queste note? Succede anche ai protagonisti del film di Lucio Pellegrini, che ha come titolo la canzone di Alan Sorrenti. I Figli delle Stelle dei giorni nostri sono un'improbabile banda del buco. Ramon, Paolo Sassanelli appena uscito di galera, il portuale di Marghera Toni, Fabio Volo, Pepe, Pierfrancesco Favino, insegnante di ginnastica che lavora all'autogrill, e suo cugino Bauer, assistente universitario, rivoluzionario che fa di ogni cosa una questione politica, interpretato da Giuseppe Battiston. si mettono insieme per risarcire la vedova di un operaio morto sul lavoro. Andrà a lei il riscatto ottenuto per la liberazione di un politico, solo che a finire nelle loro mani non è il borioso ministro che volevano sequestrare. E le parole ministro e Gerardi per noi non esistono più. D'ora in poi per noi l'ostaggio si chiama l'Arenna. Che cazzo è questo? Ma che avete fatto? Ma avete rapito? Le domande quali facciamo noi? Nome, cognome e professione. Giuseppe Stella, sottosegretario. Indietro non si torna. Bruciato il primo covo, se ne cerca un altro con l'aiuto di una nuova complice, involontaria, la giornalista Claudia Pandolfi, che porterà tutto il gruppo nella casa di montagna di famiglia. Sulle montagne valdostane, fuori stagione, è come essere fuori dal tempo. O meglio, 30 anni indietro. Chi è questo? È il custode del palazzo. E lui è il mio fidanzato. È brutto. Ha parlato Marlon Brando, no? Wow. Che questo gruppo di 35 anni e oltre non possa avere successo è evidente fin dall'inizio e lo diventa ancora di più quando si capisce che sono talmente sfigati da aver sequestrato un politico per bene. Sono buoni, confinati nella terra di mezzo, non più giovani ma non adulti, idealisti e precari. Sono i soliti ignoti di oggi, con uno sguardo a quelli di Monicelli, una fotografia realista del presente con abiti e dischi anni 80. Mettere in ridere il rapimento di un politico poteva essere un rischio, ma è la parte migliore dell'operazione. Risulta talmente surreale, visto chi lo mette in opera, che non infastidisce la memoria. Piuttosto il film fatica a decollare nella prima parte, che ci vuole spiegare troppe cose dell'oggi. Meglio il secondo tempo, quello vintage. È originale, anche se un pochino azzardato. Sicuramente ha interpretato la chiave del problema della precarietà con una chiave molto ironica. Originale? Cioè, questa idea del rapimento messo in chiave comica? Sì, anche politicamente scorretto, ma il giusto, insomma. Fa pensare un po' alle relazioni, alla vita, all'amicizia. Tanti toni, commedia, anche un po' politico, sociale, bello, sì. Il fatto di accostare la comicità a fatti drammatici e credo che alla fine venga fuori un mixer abbastanza intelligente. Ma devo dire, insomma. Perché insomma? Non lo so, l'ho trovato abbastanza vuoto. Un 4,5 darei io. Siamo a livello di Monty Python, strepitoso davvero, un pesce nome Wanda, full Monty. E allora andiamo alla seconda traccia del film misterioso di questa settimana per il nostro DVD Game. Ma io stamattina sono stato invitato da Pia per una colazione in giardino con la famiglia. Ti avrei anche portato, ma poi ho pensato, è la macelleria. E allora avete sentito questa voce, davvero riconoscibilissima, un personaggio mitico in questo film, davvero che è passato alla storia della comicità italiana, la Rosa Purpura, @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray, ricordo ancora l'edizione in Blu-ray di questo film. Adesso vogliamo parlare di musica, non perché abbiamo cambiato genere, ma perché la musica, come potete immaginare nel film, ha la sua importanza e perché certi grandi compositori di musica per i film sono passati alla storia per questo magari, ma sono stati anche degli immensi compositori di musica tout court, di musica sinfonica, di piccole opere o anche di opere più grandi. È il caso di Nino Rota. Nino Rota ovviamente è famoso in tutto il mondo per avere firmato musiche come quella che stiamo sentendo, tratta da Marc Ord, musiche per tanti film di Fellini, La strada, Le notti di Cabiria, e potremmo andare avanti, per il grande Visconti, Rocco e i suoi fratelli, per avere composto la melodia del Padrino. Pensate un po' che grado di celebrità ti dà avere composto quelle note straordinarie di quel capolavoro di Francis Ford Coppola. E quindi Nino Rota, musica da film, ma Nino Rota è anche molto altro. E per scoprire in pieno Nino Rota, l'Orchestra Verdi di Milano, l'Auditorium di Milano in Largo Mahler, ha organizzato una serie di concerti, sono ben 10 concerti, una domenica al mese praticamente, 10 concerti con la musica di Nino Rota. In ogni concerto un bellissimo programma, i concerti si terranno alle 11 del mattino, orario tra l'altro splendido per ascoltare bene questa musica, ci sarà una suite da un film, quindi un brano più celebre, una piccola composizione meno famosa e appunto altre musiche composte da Nino Rota. Esegue l'Orchestra Verdi di Milano, dirige Giuseppe Grazioli, che ha studiato molto sul patrimonio di Nino Rota compositore, e noi abbiamo intervistato Giuseppe Grazioli per farci raccontare un po' cosa vuol dire approcciare un autore così, tanto noto per il cinema e tanto da scoprire per il resto della sua produzione. Sentiamo. La cosa incredibile, che vale la pena di spendere due parole su questo aspetto della musica di Rota, è che le sue musiche per il cinema hanno un valore al di là delle immagini. Ce ne siamo accorti vedendo il continuo citarsi che c'è nella sua produzione, cioè musiche scritte per il cinema, motivi per il cinema sono finite poi nelle sue sinfonie, oppure brandelli di sonate per strumenti, per composizione da camera, eccetera, che sono finite poi in una sequenza di un film di Fellini. È un continuo sovrapporsi di cinema, opera, balletto, cioè è lo stesso compositore che affronta tutti i generi senza mai tradirsi, cioè rimanendo sempre fedele a se stesso. E è vero che quando si cita Rota si cita 2 secondi e mezzo dopo anche Fellini, ma avete mai provato a vedere un film di Fellini senza le musiche di Rota? L'effetto è ridotto del 70%. È una musica che ha un valore anche se è slegata dalla scena, dalla visione del film. Naturalmente insieme danno una cosa magica che tutti conosciamo, ma veramente valeva la pena di fare una rassegna di questo tipo. Ecco, nella rassegna sono 10 concerti, ovviamente non mancheranno appunto anche le grandi melodie create per Fellini, per Visconti, quelle che stanno più nelle orecchie della gente. Ci sarà rispetto a queste uno sforzo reinterpretativo? Cercherete di renderle, come dire, così come le conosciamo? Sì, ci sarà, e già il pubblico noterà che ascoltare dal vivo la colonna sonora è senz'altro molto più ricco che l'ascolto di una colonna sonora registrata, soprattutto quelle più vecchie, diciamo così, che sono appiattite dalla scarsa qualità della registrazione tecnica, diciamo così, mentre ascoltarle dal vivo in sala da concerto si capiranno tutti i dettagli di orchestrazione, di abilità nel sovrapporre varie linee, abilità contrappuntistica, abilità proprio di colori che è riuscito a ottenere con un'orchestra. Nell'eterno duello dei grandi compositori italiani per il cinema, Rota o Morricone? Guardi, non do un giudizio proprio perché sono schierato e direi Rota immediatamente, però provate ad ascoltare un pezzo di Morricone per il cinema e un pezzo di Morricone per la sala da concerto. Sentirete due compositori completamente diversi, proprio due personalità diverse. Ascoltate una composizione di Rota come prova d'orchestra e un pezzo come il concerto Soirée per pianoforte orchestra scritto per la sala da concerto, non noterete alcuna differenza. Questo la dice lunga sulla sua onestà intellettuale, e per questo che abbiamo voluto intitolare la rassegna La leggerezza dell'ascolto. Perché cosa diceva Rota? Non è che io scrivo musica seria o musica leggera o musica per il film, io scrivo musica e la scrivo al massimo livello di cui sono capace. E poi il pubblico, che a seconda della situazione, che dà una connotazione di musica seria se si trova nella sala da concerto, o leggera se si trova in un bar o in una sala d'attesa. Ma da parte mia c'è lo stesso impegno. E allora, maestro Grazioli, per questo ciclo di concerti sulla musica del grande Nino Rota alla Verdi di Milano, si comincia il 24 ottobre, proprio questa domenica. Per chi ci ascolta in replica, la prima l'ha persa, vabbè, però insomma sul sito dell'Orchestra Verdi può capire poi e informarsi su tutti gli altri concerti. La Rosa Purpurea. Quarta parte del nostro programma, eccoci arrivare in casa vostra a consigliarvi i film da vedere sul piccolo schermo, magari noleggiandoli o acquistandoli in videoteca, o magari semplicemente pescandoli dal palinsesto televisivo in chiaro e gratuito. Come sempre la nostra policy è assolutamente ferrea, e per fare questo cominciamo a collegarci con gli amici della redazione del settimanale Film TV, che come sempre hanno selezionato un paio di proposte per noi. C'è in linea Andrea Fornasiero. Ciao Andrea. Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana segnaliamo da martedì 26 ottobre su Rai 4 in prima serata Cube il Cubo, l'opera prima di Vincenzo Natali recentemente tornato al cinema con Splice. Si tratta di un film a metà tra horror e fantascienza in cui un gruppo di persone tra loro sconosciute si trovano in una struttura appunto a cubo piena di trappole mortali, un letterale gioco di gigantesche scatole cinesi che non esclude letture filosofiche e metafisiche. Un gran bel film da scoprire o riscoprire. Il Cubo, Cube, martedì 26 ottobre su Rai 4, quindi digitale terrestre in chiaro e gratuito alle 21:10. C'è anche però materiale per altri cinefili. Sì Franco, la seconda segnalazione è La foresta dei pugnali volanti di Zhang Yimou, giovedì 28 ottobre su Rai Movie alle 21. Il regista di Lanterne Rosse affronta il Wuxia Pian con delle splendide coreografie di Ching Siu Tung, un cast asiatico all star col sino giapponese Takeshi Kaneshiro, la cinese Zhang Zui e l'hongkongese Andy Lau. Una ribelle, due guardie, nessuna che dice di essere, un triangolo amoroso che più che all'azione dedica spazio al melodramma. Altro film colossal clamoroso, La foresta dei pugnali volanti, una produzione impressionante, a Hollywood sarebbe costato 300 milioni di dollari probabilmente, questo film di cappa e spada appunto, firmato da Zhang Yimou, La foresta dei pugnali volanti, giovedì 28 ottobre su Rai Movie alle 21. Grazie Andrea. Ciao Franco, ci risentiamo da Film TV la settimana prossima. Questi consigli di Film TV per la prossima settimana, e allora andiamo a giocare per l'ultima volta con il Blu-ray Game di questa settimana. Perché io e gli altri soldati dovevamo fermare qualsiasi straniero sulla frontiera di Spagna, fino alla partenza dell'italiano. Accento spagnolo che dovrebbe anche in questo caso dire qualcosa. Abbiamo cercato di essere il più, fra virgolette, cattivi possibili con queste tracce, perché è un film di una popolarità immensa. La Rosa Purpura @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. E andiamo a vedere chi ha indovinato di che film si trattava la settimana scorsa. In realtà il gioco era su due uscite in simultanea, ma le tracce erano relative solo a uno di questi due film. Ascoltiamone una. Beh, qui c'è una pompa per i fiori. Oh, come spiritoso! Ora sei socievole, ora sei europeo! Ora sei quello che sei, grazie all'arte e grazie alla natura! Arriva roba buona! E allora questo era Romeo più Giulietta di Baz Luhrmann. Il tema era proprio Baz Luhrmann, perché stanno uscendo due fantastiche edizioni speciali in Blu-ray di Romeo più Juliet e di Moulin Rouge, che era l'altro film che non vi abbiamo fatto ascoltare ma che vi facciamo vincere. I primi e i più bravi a indovinare sono stati Chiara Rocchi di Brescia, Angelica Porrari di Modena e Anna Piccirillo di Roma, tre donne tra l'altro, insomma cinefile da assalto, che riceveranno appunto uno di questi Blu-ray. Di questa uscita, di questo omaggio a Baz Luhrmann in chiave Blu-ray in alta definizione ci parla Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, la doppia uscita Fox Home Entertainment in alta definizione è da collezione a partire dalla confezione vera e propria, con questa preziosa sovracoperta in cartoncino sotto la quale troviamo questa classica custodia blu che contiene non solo il Blu-ray ma anche la versione DVD a definizione video standard con solo il film. Entrambi i master video, ricordo, sono addirittura approvati dal regista Baz Luhrmann, ottime le due tracce di TS in italiano, anche se a farla da padrone è l'inglese, sempre di TS ad alta risoluzione. Sono tantissimi gli extra sulla produzione e su tutti segnalo la modalità di visione immagine nell'immagine, dove si scoprono i segreti della lavorazione mentre contestualmente si segue il film. Questo per quanto riguarda l'uscita di Romeo più Juliet e Moulin Rouge, il nostro game della settimana scorsa. Invece adesso passiamo alle selezioni, alle recensioni della Rosa Purpura, cominciando da un film come Babel, un gioco di incastri, una sorta di destini incrociati nel film di Inarritu. Sentiamo la clip. Dice di averle fatto da guida durante una battuta di caccia. Hassan, sì, me lo ricordo bene. Ottima guida, un bravissimo uomo. Gli ho regalato il fucile per ringraziarlo. È successo qualcosa? Vede, il suo fucile è stato usato in un tentato omicidio e la polizia marocchina vuole conferma che non sia un fucile di contrabbando. No, nel modo più assoluto. Gliel'ho regalato io. Una famiglia marocchina, una giapponese, una americana, c'è anche una badante messicana. Individui separati da immense distanze sul pianeta, le cui esistenze sono legate a doppio filo da una serie di drammatici eventi. Grande potenza espressiva dal regista messicano Iñárritu, miglior regia a Cannes nel 2006, che con Babel chiuse la trilogia sulla morte assieme ad Amores Perros e 21 grammi. L'immensa fotografia del film è godibile per la prima volta a casa, come al cinema, grazie al Blu-ray di 01 Distribution che restituisce appunto questa cinematografia in piena forma. Ci sono due tracce di TS ad alta risoluzione, italiano e originale, entrambe assolutamente da ascoltare, soprattutto l'originale per un maggiore coinvolgimento nei racconti. Come extra c'è un making of e il trailer. Adesso parliamo invece di un film di un regista noto per i film d'azione, Johnny To. Per chi ama il cinema asiatico è davvero uno spara dall'inizio alla fine, però che con questo film che stiamo presentandovi ha davvero dato proprio la dimostrazione della sua immensa statura di autore. Il film si intitola Vendicami, è un film di vendetta, come potete immaginare, di una vendetta magistrale, interpretato da un intensissimo Johnny Hallyday. Sentiamo la clip. Ci sono tre uomini. Uno mette il peso sul piede sinistro e spara con la mano sinistra. Un fucile da caccia, un Mad Max, una Magnum. E a uno mia figlia ha sparato mozzandogli l'orecchio. Questo ci aiuterà. Avrò bisogno di un'arma. Tu sai usare pistola? A Macao un'intera famiglia è trucidata da sicari che non risparmiano nemmeno i bambini che la madre aveva tentato disperatamente di salvare. Ricoverata in fin di vita all'ospedale, la donna incontra il padre, Francis Costello, cuoco francese con un passato da killer. Lei invoca vendetta, lui, sofferente per una pallottola nel cranio non asportabile, assolda tre sicari del posto dando la caccia a esecutori e mandante. Johnny To realizza questo noir potente che tra i suoi notevoli attori vanta appunto Johnny Hallyday, subentrato ad Alain Delon, poco convinto della parte. Il DVD Cechigori ha qualità abbastanza buona, c'è qualche calo di resa nei momenti più bui, la traccia in italiano, l'unica multicanale, offre passaggi anche in cinese e francese. Tra gli extra segnalo su tutti un interessante making of, ricordo che in Italia è disponibile solo il DVD, mentre è già pubblicato in Francia il Blu-ray. Grazie Claudio, appuntamento fra 7 giorni. A presto, un saluto. Si chiude qui la puntata della Rosa Purpurea. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 18, domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica. Un saluto da Franco D'Assisti, appuntamento qui alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.